Atti degli Apostoli, episodio 3. Il dodicesimo uomo. Leggo nella Bibbia, in Atti degli Apostoli, capitolo 1, versi 15 a 26. In quei giorni Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone riunite era di circa 120, disse: «Fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della Scrittura pronunciata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù, perché egli era uno di noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministero. Egli dunque acquistò un campo con il salario della sua iniquità, poi essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre, e tutte le sue interiora si sparsero. Questo è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nella loro lingua Acheldama, cioè campo di sangue. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e più nessuno abiti in essa. Il suo incarico lo prenda un altro». Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni, fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, uno diventi testimone con noi della sua risurrezione. Essi ne presentarono due: Giuseppe detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Poi in preghiera dissero: «Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero apostolico il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo». Tirarono quindi a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu incluso tra gli 11 apostoli. Gesù aveva scelto 12 apostoli per tenerli con sé. Si legga Marco 3,14, ovvero per avere con loro un rapporto più intenso. In questo modo essi sarebbero stati coloro che avrebbero conosciuto più dettagli della sua vita e del suo ministero, e in seguito sarebbero stati i suoi testimoni primari. Però sappiamo che Giuda Iscariota, uno dei 12, aveva tradito Gesù e poi si era tolto la vita, quindi i discepoli erano rimasti in 11. Gesù lo aveva scelto e lo aveva tenuto con sé come gli altri, affidandogli la sua parte come testimone, ma Giuda ricambiò l'amicizia di Gesù con il tradimento. Pietro, rivolgendosi a circa 120 discepoli, riuniti insieme nella sala al piano superiore di cui avevamo letto in precedenza in Atti 1,13, ricordò agli altri discepoli ciò che era accaduto, ripercorrendo in sostanza, anche se con meno dettagli, quanto riportato da Matteo in Matteo 27 versi 3 a 8, ovvero che Giuda si era tolto la vita per il rimorso e con i 30 sicli, prezzo del suo tradimento, che lui aveva restituito ai capi dei sacerdoti, come sappiamo da Matteo, era stato comprato un campo destinato alla sepoltura degli stranieri, che gli abitanti di Gerusalemme avevano chiamato campo di sangue. Pietro sottolineò che la defezione di Giuda era necessaria in quanto adempimento di una profezia che lo Spirito Santo aveva pronunciato per mezzo di Davide. Ma di quale profezia si tratta? Chi pensa che la parola profezia sia sempre riferita a predizioni di qualcosa il cui adempimento è futuro, potrebbe rimanere perplesso, perché in effetti nella Bibbia non c'è una profezia specifica a riguardo. Ma leggendo il Nuovo Testamento ci si rende conto del modo in cui gli apostoli citavano le scritture dell'Antico Testamento, applicando alle circostanze attuali i testi antichi. In questo caso Pietro si riferì al testo del Salmo 69, verso 25: «Sia desolata la loro dimora, nessuno abiti le loro tende». Un testo nel quale Davide si riferiva a coloro che lo stavano perseguitando e opprimendo. Che relazione c'è tra quel testo e Giuda Iscariota? Ovviamente Pietro stava applicando a Gesù il testo di quel salmo, vedendo un parallelo tra la situazione attuale e quella che Davide, avo di Gesù, aveva vissuto a suo tempo, come i persecutori di Davide erano stati in qualche modo giudicati, così il giudizio ricadeva su colui che aveva tradito Gesù. In effetti, molti salmi che Davide aveva scritto riferendosi a se stesso erano di fatto applicabili anche al Messia. Anzi, talvolta, leggendo i salmi, ci si rende conto di come il Signore abbia guidato la vita di Davide e quella di Gesù in modo da rendere evidenti alcune analogie straordinarie. In tal senso, questi testi sono senz'altro profetici, come Pietro stava affermando. Un discorso analogo può essere fatto per l'altra citazione riferita al Salmo 109, verso 8. «Siano pochi i suoi giorni, un altro prenda il suo posto». In quel salmo Davide pregava Dio di liberarlo dagli empi, che lo opprimevano e gli facevano guerra senza motivo, che gli rendevano male per bene, diventando suoi nemici in cambio della sua amicizia. Davide chiedeva quindi a Dio di vendicarlo, facendo in modo che i giorni dei suoi nemici fossero pochi, ovvero morissero, e il loro posto fosse quindi preso da un altro. È evidente che anche in questo caso Pietro vide uno splendido parallelo con Giuda, che aveva effettivamente tradito Gesù in cambio della sua amicizia. Essendo morto, ora il suo posto poteva essere preso da un altro. Ma qualcuno potrebbe chiedersi perché fosse proprio necessario che ci fosse un dodicesimo apostolo. 11 non erano sufficienti? Non sembra che Gesù avesse lasciato particolari istruzioni in proposito. Ma se rileggiamo i Vangeli, troviamo qualche indizio che poteva aver portato Pietro a suggerire di sostituire il traditore Giuda. Infatti, in Matteo 19, verso 28, leggiamo che Gesù, riferendosi al suo futuro regno, aveva dichiarato: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele». Dal momento che Giuda aveva abbandonato il suo ufficio, a Pietro dovette sembrare logico che rimanesse un trono che andava occupato da un altro apostolo. Pietro convinse anche gli altri circa la necessità di scegliere un sostituto di Giuda che avesse i requisiti, ovvero che fosse stato testimone di tutto il ministero di Gesù dal suo battesimo fino alla sua ascensione, passando per la sua morte e risurrezione. In particolare la risurrezione era il fulcro dell'intera opera di Gesù, intorno al quale, come vedremo, avrebbe ruotato il messaggio del Vangelo che gli apostoli avrebbero predicato. Pietro sottolineò quindi quanto fosse fondamentale che anche il dodicesimo apostolo fosse come loro testimone di quell'evento. Pietro lasciò che la comunità presentasse due candidati, Giuseppe detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Visto che entrambi rispondevano ai requisiti richiesti, non c'erano altri criteri sulla base del quale discriminarli. Decisero allora di affidarsi al Signore e tirarono a sorte, avendo pregato il Signore di scegliere per loro. Così Mattia diventò il dodicesimo uomo che sarebbe stato testimone della risurrezione di Gesù. Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, non è entrato per un soffio tra i 12 apostoli. Ma questo non significa che non abbia potuto svolgere un ruolo importante al servizio per il Signore. D'altra parte, questi 12 apostoli sarebbero entrati nella storia come i testimoni primari della prima venuta di Gesù e il loro ruolo fu quindi unico in tal senso. Ma nel seguito di questo libro vedremo che a questi 12 apostoli seguirono altri testimoni efficaci, altri ambasciatori del Re dei Re, e a questi ne sono seguiti tanti altri affinché la buona notizia del Regno potesse giungere fino ai nostri giorni e fino alla porta della nostra casa. Così a distanza di tanti secoli, pur non essendo testimoni oculari della risurrezione di Gesù, anche noi abbiamo sperimentato la sua vita e la potenza della risurrezione in noi. E anche noi abbiamo raccolto il testimone come ambasciatori del Re dei Re in attesa del suo ritorno.